22. Dio del cielo e della terra, Dio della forza e dell'amore, ascolta una voce pura, da un'anima pura e da un seno vergine, ascolta la preghiera di un bambino, ridacci l'Elia. Perché, mio Dio, vuoi strappare l'amata dai nostri cuori così presto? Ascolta la grande e potente voce di Tranmor, dell'uomo che ha sofferto, dell'uomo che ha vissuto. Ascolta il voto di un'anima ancora ignara dei mali della vita. Entrambi ti chiedono di preservare la loro proprietà, la loro poesia, la loro speranza, Lelia. Se puoi già collocarla nella tua gloria e avvolgerla nella tua beatitudine eterna, riprendila, mio Dio. Lei ti appartiene. Ciò che vuoi per lei è meglio di ciò che le togli. Ma salvando Lelia, non ci dividere, non ci perdere, oh mio Dio. Seguiamola, inginocchiamoci sui gradini del trono dove siederà. È molto bello, disse Lelia interrompendolo, ma sono versi e nulla più. Lascia che quest'arpa dorma in pace o mettila sulla finestra, il vento la suonerà meglio di te. Ora avvicinati. Vattene, Trenmore, la tua calma mi rattrista e mi scoraggia. Vieni, Stenio, parlami di te e di me. Dio è troppo lontano, temo che non ci ascolterà, ma Dio ha messo un po' di sé in te. Mostrami cosa ne pensa la tua anima. Mi sembra che un'aspirazione molto ardente di quest'anima verso la mia, mi sembra che una preghiera molto fervente che tu mi rivolgessi mi darebbe la forza di vivere. La forza di vivere. Sì, si tratta solo di volerlo. Il mio male consiste, Stenio, nel non trovare questa volontà in me stessa. Stai sorridendo, Trenmore? Vattene via. Ahimè, Stenio, è vero, cerco di resistere alla morte, ma ci provo debolmente. La temo meno di quanto la desideri. Vorrei morire per curiosità. Ahimè, ho bisogno del cielo, ma dubito, e se non c'è un cielo sopra queste stelle, vorrei contemplarlo dalla terra. Forse, mio Dio, è solo qui sulla terra che dobbiamo sperare. Forse è nel cuore dell'uomo. Dite voi che siete giovani e pieni di vita, l'amore è il paradiso. Vedi come la mia testa si sta indebolendo e perdona questo momento di delirio. Vorrei credere in qualcosa, anche solo in te, anche solo per un'ora, prima di finire, forse senza ritorno, con gli uomini e con Dio. Oh, dubita di Dio, dubita degli uomini, dubita di me stesso, se vuoi, disse Stenio, inginocchiandosi davanti a lei. Ma non dubitare dell'amore, non dubitare del tuo cuore, Lelia. Se devi morire ora, se devo perderti, o mio tormento, o mio bene, o mia speranza, fammi credere in te almeno per un'ora, per un istante. Ahimè, morirai senza che io ti abbia visto vivere. Morirò con te senza aver abbracciato in te nient'altro che un sogno. Mio Dio, c'è solo amore nel cuore che desidera, nell'immaginazione che soffre, nei sogni che ci fanno addormentare nelle notti solitarie. È un respiro fuggente, è una meteora che brilla e muore, è una parola. Cosa c'è, mio Dio? Oh cielo, oh donna, non mi insegnerai? Questo fanciullo chiede alla morte il segreto della vita, disse Lelia. Si inginocchia su una bara per ottenere l'amore. Povero bambino, mio Dio, abbi pietà di lui e ridammi la mia vita perché io possa conservare la sua. Se me lo restituisci, giuro di vivere per lui. Dice che ti ho bestemmiato, bestemmiando l'amore. Ebbene, chinerò la mia superba fronte, crederò, amerò. Lasciami vivere con la vita del corpo e cercherò di vivere con quella dell'anima. Hai sentito, mio Dio? Gridò Stenio delirante. Hai sentito cosa dice? Cosa promette? Salva lei, salva me, ridammi Lelia, ridale la sua vita. Lelia cadde, fredda e rigida, sul pavimento. È stata un'ultima terribile crisi. Stenio la strinse al cuore, gridando alla sua disperazione. Il suo cuore bruciava, le sue calde lacrime cadevano sulla fronte di lei, i suoi baci rinvigorenti le riportarono il sangue alle labbra. La sua preghiera forse commosse il cielo. Lei le aprì debolmente gli occhi e disse a Trenmore che la aiutasse ad alzarsi. Stenio ha sollevato la mia anima. Se vuoi spezzarla di nuovo con la tua ragione, uccidimi subito. E perché dovrei portarti via l'unico giorno che ti resta? Disse Trenmore. L'ultima piuma della tua ala non è ancora caduta. Parte seconda. 1. Magnus. Una mattina Stenio stava scendendo le pendici boscose del Monte Rosa. Dopo aver vagato a caso lungo un sentiero coperto da una fitta vegetazione, giunse a una radura aperta dalle valanghe. Era un luogo selvaggio e grandioso. Una vegetazione scura e vigorosa coronava le rovine della montagna spaccata. Lunghe clematis abbracciavano con le loro braccia profumate le vecchie rocce nere e polverose che giacevano sparse nella gola. Su entrambi i lati della gola, i fianchi semiaperti della montagna, fiancheggiati da scuri abeti e tappezzati di viti vergini, si ergevano come gigantesche pareti. Nel profondo della gola, il torrente rotolava le sue acque chiare e rumorose su un letto di ciottoli riccamente colorati. Se non avete visto un torrente, purificato dalle sue mille cataratte, scorrere tra le viscere nude della montagna, non sapete cosa significhi vedere la bellezza dell'acqua e le sue armonie pure. A Stenio piaceva passare le notti avvolto nel suo mantello ai bordi delle cascate, sotto il religioso riparo dei grandi cipressi selvatici, i cui rami muti e immobili soffocano il respiro delle brezze. Sulle loro folte cime si fermano le voci vaganti dell'aria, mentre le note profonde e misteriose dell'acqua che scorre emergono dal seno della terra e vengono esalate come cori religiosi dalle profondità delle cantine funerarie. Sdraiato sull'erba fresca e lucente che cresce ai bordi dei ruscelli, il poeta dimentica, contemplando la luna e ascoltando l'acqua, le ore che avrebbe potuto trascorrere con Lelia, perché a quest'età tutto è felicità in amore, anche l'assenza. Il cuore dell'amante è così ricco di poesia che ha bisogno di raccoglimento e di solitudine per assaporare tutto ciò che crede di vedere nell'oggetto della sua passione, tutto ciò che in realtà è solo in lui stesso. Stenio trascorse molte notti in estasi. I ciuffi viola dell'erica gli nascondevano la testa dai sogni più ardenti. La rugiada mattutina aveva cosparso i suoi capelli fini di lacrime profumate. I grandi pini della foresta scuotevano su di lui i profumi che esalavano all'alba. Il martin pescatore, il bellissimo uccello solitario dei torrenti, veniva a lanciare il suo grido malinconico tra le pietre nerastre e la schiuma bianca del torrente che il poeta amava. Fu una bella vita d'amore e di giovinezza, una vita che riassumeva la felicità di 100 vite. Eppure passò rapidamente come l'acqua gorgogliante e l'uccello fuggitivo delle cataratte. In autunno e nel corso dell'acqua ci sono mille voci diverse e melodiose, mille colori scuri e brillanti. A volte furtiva e discreta passa con un fremito nervoso contro le lastre di marmo che la ricoprono con il loro riflesso nero bluastro. A volte, bianca come il latte, schiumeggia e salta sulle rocce con una voce che sembra interrotta dalla rabbia. A volte, verde come l'erba che stende appena sul suo cammino, a volte blu come il cielo sereno che riflette, sibila tra i giunchi, come una vipera innamorata. Oppure dorme al sole e si risveglia con lievi sospiri al minimo soffio d'aria che la carezza. Altre volte muggisce come una giovenca sperduta negli anfratti e cade, monotona e solenne, sul fondo di un abisso che la abbraccia, la nasconde e la soffoca. Poi getta gocce di luce sui raggi del sole che si colorano con tutte le sfumature del prisma. Quando questa capricciosa iridescenza danza sulla bocca spalancata dell'abisso, non c'è silfide abbastanza trasparente né psilla abbastanza morbida per l'immaginazione che la contempla. La fantasticheria non può evocare nulla, perché nelle creazioni del pensiero nulla è bello come la natura grezza e selvaggia. Bisogna guardare e sentire prima il più grande poeta e allora quello che inventa di meno. Ma Stenio aveva nel cuore la fonte di ogni poesia, l'amore, e grazie all'amore coronò le più belle scene della natura con un grande pensiero, con una grande immagine, quella di Lelia. Com'era bella Lelia, riflessa nelle acque della montagna e nell'anima del poeta, come gli apparve grave e sublime nel bagliore argenteo della luna, come si levava la sua voce piena e ispirata nel lamento del vento, negli accordi aerei della cascata, nel respiro magnetico delle piante che si cercano si chiamano e si abbracciano. Nell'ombra della notte, nell'ora dei sacri misteri e delle divine rivelazioni. Allora Lelia era ovunque, nell'aria, nel cielo, nelle acque, nei fiori, nel seno di Dio, nel riflesso delle stelle. Stenio vedeva il suo sguardo mobile e penetrante, nel soffio delle brezze coglieva le sue parole incerte, nel mormorio delle onde i suoi canti sacri, le sue lacrime profetiche, nell'azzurro puro del firmamento. Credeva di vedere i suoi pensieri aleggiare, a volte come uno spettro alato, pallido, incerto e triste, a volte come un angelo prorompente di luce, a volte come un demone odioso e beffardo, perché c'era sempre qualcosa di spaventoso nelle profondità delle sue fantasticherie, e la paura premeva con il suo pungiglione amaro sui desideri appassionati del giovane. Nel delirio delle sue notti erranti, nel silenzio delle valli deserte, la chiamava a gran voce e quando la sua voce risvegliava gli echi del sonno, gli sembrava di sentire la voce lontana di Lelia che gli rispondeva tristemente dal seno delle nuvole. Quando il rumore dei suoi passi spaventava qualche cerva in agguato sotto la ginestra e lui la sentiva rasare le foglie secche sparse lungo il sentiero, immaginava di sentire i passi leggeri di Lelia e il fruscio del suo vestito mentre sfoltiva i fiori del cespuglio. E poi, se qualche bell'uccello di queste terre, la pernice bianca dal petto argentato, il rampichino rosato e grigio perla e il francolino scuro e senza sfumature, veniva ad atterrare vicino a lui e lo guardava calmo e fiero, pronto a spiegare le ali al cielo, Stenio pensava che forse era Lelia che stava volando via in quella forma, verso regioni più libere. Forse, disse a se stesso mentre scendeva a valle con il terrore ingenuo di un bambino, forse non troverò più Lelia tra gli uomini. E si rimproverò con terrore di essere riuscito a lasciarla per alcune ore, nonostante l'avesse portata con sé ovunque nei suoi viaggi, nonostante avesse riempito di lei le montagne e le nuvole, nonostante avesse riempito con il suo ricordo e le sue apparizioni le vette più inaccessibili ai piedi dell'uomo gli spazi più sfuggenti alla sua speranza. Quel giorno si fermò all'ingresso della profonda radura e stava per tornare indietro perché vide un uomo davanti a sé e il luogo più bello perde il suo fascino quando chi viene a sognare non è più solo. Ma l'uomo era bello e severo come il sito. I suoi occhi brillavano come il sole nascente e la prima luce del giorno, che colorava il ghiacciaio e gettava una splendida luce anche sul volto imponente del sacerdote. Era Magnus. Sembrava in uno stato di profonda emozione. Dolore e gioia erano alternativamente dipinti in lui, vividi e potenti. Quest'uomo sembrava ringiovanito dall'entusiasmo. Non appena vide Stenio, gli corse incontro. Ebbene, giovanotto, disse trionfante, sei solo? Sei triste? Stai cercando Dio? La donna non c'è più. La donna, disse Stenio. C'è solo una donna al mondo per me. Ma di chi di noi due stai parlando? Sto parlando dell'unica donna al mondo che sia mai esistita per te e per me, Lelia. Dimmi, giovanotto, è davvero morta? Ha rinnegato Dio dando la sua anima al diavolo? Hai visto la falange nera di spiriti oscuri che assediava il suo letto e tormentava la sua agonia? Hai visto la sua anima maledetta uscire, scura e livida, con ali di fuoco e unghie insanguinate? Ora respiriamo. Dio ha purificato la terra, ha ricacciato Satana nel suo caos. Possiamo pregare, possiamo sperare. Guarda come il sole sorge gioioso, come le rose della valle si aprono fresche e rubiconde. Osserva come gli uccelli scuotono le loro ali bagnate e prendono il volo con agilità. Tutto rinasce, tutto spera, tutto vive. Lelia è morta. Che parole malvagie hai sulle labbra? Gridò Stenio, afferrando il prete per la gola. Quale pensiero di delirio e di morte ti agita? Da dove vieni? Dove hai trascorso la notte? Come si fa a sapere cosa si ha il coraggio di dire? Da quanto tempo sei lontano da Lelia? Ho lasciato Lelia in una mattina fredda e grigia. Il giorno stava per sorgere. Il gallo cantò con voce aspra. La sua voce si levò nel silenzio e colpì i tetti abitati degli uomini come una maledizione profetica. Il vento piangeva sotto i portici deserti della cattedrale. Ho camminato lungo le arcate esterne fino alla casa della donna morente. Le colonne frastagliate nascondevano le loro guglie nella nebbia e la grande statua dell'arcangelo che si erge sul lato orientale bagnava la sua fronte pallida nel vapore del mattino. Poi vidi distintamente l'arcangelo che agitava le sue grandi ali di pietra come un'aquila pronta a spiccare il volo, ma i suoi piedi rimanevano incatenati al cemento del cornicione e sentì la sua voce che diceva: «Lelia non è ancora morta!» Poi passò un gufo che mi rasò la fronte con la sua ala bagnata e ripeté in tono amaro: «Lelia non è morta!» La fanciulla di marmo bianco che si trova nella nicchia orientale sospirò profondamente e disse: «Ancora non è morta!» Con una voce così debole che pensai di sognare e mi fermai più volte lungo la strada per assicurarmi di non essere sotto il potere dei sogni. «Sacerdote!» disse Stenio. La tua mente è confusa. Di quale mattina stai parlando? Sai quanto tempo fa sono accadute le cose che dici? Beh, da allora, disse Magnus, ho visto molte volte il sole sorgere nella sua gloria e proiettare i suoi splendidi raggi su questo ghiacciaio scintillante. Non so dirti quante volte. Da quando Lelia non c'è più, non conto più i giorni, non conto più le notti. Lascio che la mia vita scorra, pura e disinvolta, come il ruscello sulla collina. La mia anima è salva. Hai perso la testa, grazie a Dio. Tu parli della malattia mortale che ci ha quasi portato via Lelia un mese fa. Dai capelli e dalla barba vedo che sei stato a lungo in montagna. Vieni con me, uomo infelice. Cercherò di alleviarti ascoltando la storia del tuo dolore. I miei dolori non ci sono più, disse il sacerdote con un sorriso che avrebbe potuto essere scambiato per un'ispirazione celeste, tanto era dolce e tranquillo. Ho visto Lelia morta. Ascolta la storia della mia gioia. Quando arrivai a casa della donna, sentii la terra tremare e quando volli salire le scale, queste si bloccarono 3 volte prima che potessi metterci piede. Ma quando le porte si aprirono, vidi molte persone e mi ricordai subito come un sacerdote deve comportarsi di fronte al mondo per ottenere il rispetto di Dio e degli altri sacerdoti. Mi ero dimenticata di Lelia. Ho attraversato gli appartamenti senza problemi e senza paura e quando entrai nell'ultimo non riuscivo a ricordare il nome della persona che dovevo vedere perché, ti dico, c'era gente e sentivo lo sguardo degli uomini su di me. Conosci il peso dello sguardo umano? Hai mai provato a sollevarlo? Oh, pesa più di questa montagna, ma per saperlo bisogna essere un sacerdote e indossare l'abito che vedi. Ricordo che si trattava di un armadio tutto ricoperto di bianco e pieno di trappole e lacci. All'inizio mi sembrava di camminare sulla lana morbida e fine di un tappeto. Mi sembrava di vedere rose bianche in vasi di alabastro e luci bianche e morbide in globi di vetro opaco. Mi sembrò di vedere una donna vestita di bianco e distesa su un letto di raso bianco, ma quando girò e il suo volto livido verso di me, quando incontrai il suo sguardo sfrontato, ah, l'incantesimo che pesava su di me svanì, vidi chiaramente intorno a me, riconobbi il luogo in cui ero stato portato. Le rose si trasformarono in serpi e si attorcigliarono sui loro steli, alzando le loro teste minacciose verso di me. Le pareti si macchiarono di sangue, i vasi di profumo si riempirono di lacrime e vidi che i miei piedi non toccavano più il suolo. Le lampade sprigionavano fiamme rosse che salivano verso la volta in spirali infuocate e mi soffocavano come un rimorso. Rivolsi di nuovo lo sguardo al divano. C'era ancora Lelia, ma era su una stufa accesa, morendo tra atroci dolori. Mi chiese di salvarla, lo ricordo bene, ma poi ricordai anche le vane preghiere che le avevo rivolto altre volte, le inutili lacrime che avevo versato ai suoi piedi e il risentimento si fece strada nel mio cuore. Aveva perso la mia anima, mi aveva tolto Dio, ero felice di vendicarmi e di perdere la sua anima e di toglierle Dio a mia volta. Perciò la maledissi e mi salvai e Dio ricompensò il mio coraggio perché subito una nube si stese sulla mia vista. Le lingue di fuoco, il sangue e le lacrime scomparvero e mi ritrovai da solo ai piedi delle arcate della cattedrale. Il giorno stava sorgendo, i vapori si stavano un po' dissipando, l'arcangelo di pietra portò allora alle labbra la tromba che la sua mano teneva immobile da diversi secoli. Ne trasse una brillante fanfara nella quale distinsi questo grido salvifico: «Lelia non c'è più!» Il gufo è tornato alla tenda che funge da rifugio, ripetendo: Lelia non c'è più! Allora la Vergine di marmo bianco, quella Vergine che non osavo guardare quando passavo ai suoi piedi perché assomigliava a Lelia, quella Vergine così pallida e così bella, che aveva sette spade in seno e tutti i dolori dell'anima sulla fronte, cadde spezzata sui gradini della chiesa. Vivrò 100 anni e non lo dimenticherò. Dimmi, hai visto i detriti? L'ho incrociata ieri sera, rispose Stenio. Vi assicuro che è ancora molto bella e in buona salute. Non bestemmiare, giovanotto, disse il sacerdote con spaventosa serietà. Dio ti colpirebbe con la sua maledizione, ti farebbe impazzire. Temo che tu sia già pazzo perché parli come un essere privo di ragione. Sai cos'è l'uomo? Sai cos'è Dio? Conosci la terra? Conosci il cielo? Prete. Lascia che ti lasci, disse Stenio, che il pazzo voleva trascinare verso la sua grotta. Non riesco ad ascoltare le tue parole senza terrore. Tu maledici Lelia, la condanni al nulla e osi parlare di Dio e osi indossare l'abito dei suoi ministri? Fanciullo, disse il sacerdote, è perché temo Dio, è perché rispetto l'abito che porto che maledico Lelia. Lelia. La mia perdita, la mia seduzione, la mia rovina, Lelia che mi è stato proibito di possedere, persino di desiderare, l'atroce e infame che è venuta a cercarmi nelle profondità del santuario, che ha violato la santità dell'altare per inebriarmi con le sue carezze infernali. Stai mentendo! Gridò Stenio furioso. Lelia non ti ha inseguito, non ti ha mai amato. Lo so, disse il sacerdote a bassa voce. Non mi capisci? Ascolta, siedi con me sul tronco di questo larice che fa da ponte sull'abisso, lì, più vicino a me, la tua mano nella mia, non avere paura. L'albero si piega, il torrente scroscia, l'abisso spumeggia laggiù in quella profondità nera, proprio sotto di noi. È bello, è l'immagine della vita. Mentre parlava, il folle avvolse le braccia intorno a Stenio, che era teso per la febbre, era più alto di lui e il delirio aveva aumentato terribilmente la sua forza muscolare. Il suo sguardo spento si tuffava nell'abisso e ne misurava la profondità, mentre le sue mani distratte e convulse sembravano pronte a gettarvi il giovane. Nonostante il pericolo di questa situazione, Stenio era così ansioso di sentire quello che stava per sentire. Il segreto che c'era tra Lelia e il prete torturava la sua anima gelosa da così tanto tempo che rimase tranquillamente seduto sull'unico travetto che tremava sopra il precipizio. Questo è chiamato il ponte dell'inferno. Ogni gola, ogni torrente ha il suo pericoloso passaggio decorato con lo stesso nome enfatico. È praticabile solo da camosci, audaci cacciatori e snelle ragazze di montagna. Ascolta, ascolta, disse il sacerdote. C'erano due Lelia, tu non lo sapevi, giovanotto, perché non eri un sacerdote, perché non avevi rivelazioni, né visioni, né presentimenti. Ero un sacerdote. Conoscevo le cose del cielo e della terra, vedevo Lelia come doppia e completa, donna e idea, speranza e realtà, corpo e anima, dono e promessa. Oh, questo è abbastanza chiaro, e se tutti gli uomini non fossero pazzi, ascolterebbero la parola di un uomo saggio, conoscerebbero il pericolo, si guarderebbero dal nemico. O era il mio nemico? Era duplice, sedeva la sera nella galleria della navata, lo vedevo bene, conoscevo fin troppo bene il luogo dove era solito apparire il mio nemico. Era in una ricca baia, tutta drappeggiata di velluto blu pallido. Lo vedo ancora quel posto maledetto. Era tra due esili colonne che la portavano sospesa tra la volta e il pavimento. Sulle loro fragili ghirlande di pietra c'erano due angeli scolpiti, bianchi come la neve, belli come la speranza, che intrecciavano le loro mani bianche e incrociavano le loro ali di marmo sulla cresta della balaustra. Fu proprio lì che venne a sedersi la donna, si è chinata con empia calma, ha appoggiato il suo gomito insolente sulla fronte spiovente di questi due bellissimi angeli, ha giocato con le frange d'argento dei drappeggi, ha scompigliato i riccioli dei capelli, ha percorso con il suo sguardo audace il tempio invece di chinare il capo e adorare l'Eterno. Oh no, non è venuta lì per pregare quella donna, era venuta per rilassarsi, per essere vista come in uno spettacolo, per distrarsi dalle feste e dalle mascherate, ascoltando per un'ora le note dell'organo e la poesia degli inni. E tutti i vostri babbani, tutti i vostri dandy, tutte le vostre persone inutili erano lì, giovani e vecchi, ricchi e nobili, che seguivano con gli occhi ogni sua mossa. Spiavano ogni suo sguardo, si sforzavano di cogliere i suoi pensieri nelle profondità impenetrabili delle sue orbite e si agitavano come i dannati nelle loro tombe a mezzanotte per attirare su di sé l'attenzione invidiosa della donna. Ma lei, Malelia, quanto era alta, quanto era imponente, con quanto disprezzo incombeva su tutti loro. Come l'ho amata allora, come l'ho benedetta per il suo orgoglio. Quanto l'ho vista bella sotto il bagliore spento delle candele, pallida e grave, orgogliosa e gentile. Oh, non l'avete posseduta voi altri. Non sapevi cosa succedeva nel suo cuore. I suoi occhi non te l'hanno mai rivelata. Non eri più felice di me. Come questo pensiero mi ha legato a lei. Dimmi, dimmi, hai mai afferrato la sua anima? Hai indovinato l'idea che fermentava nella sua grande fronte, hai scavato nel suo cervello e cercato i tesori del suo pensiero, no? Non è vero, né lei possedeva Lelia. Non sai cosa significhi essere Lelia? L'hai vista sorridere tristemente o sognare annoiata? Non hai visto il suo petto gonfiarsi, le sue lacrime scorrere? Non hai visto la sua rabbia, il suo odio, il suo amore sgorgare? Di, giovanotto, che non sei più felice di me. Se mi dicessi il contrario, senti, questo abisso non sarebbe abbastanza profondo per accoglierti. E l'altra Lelia? Disse il giovane, per nulla allarmato dall'esasperazione di Magnus. L'altra Lelia, gridò Magnus, battendosi la fronte come se un terribile dolore si fosse risvegliato lì. L'altra. Era un mostro orrendo, un'arpia, uno spettro. Eppure era la stessa Lelia, era solo la sua altra metà. Ma dove la incontrasti? Disse Stenio preoccupato. Oh, dappertutto, disse il sacerdote. La sera, quando la funzione era finita, quando le candele si erano appena spente e la folla usciva dalle porte della chiesa, seguendo le orme di quella donna che chiamavano Lelia, che si allontanava lentamente e pallidamente, avvolta nel suo mantello di velluto nero, trascinando dietro di sé un corteo al quale non si degnava di lanciare uno sguardo. Anch'io la seguivo con gli occhi, con l'anima, e sentivo di essere un sacerdote. Ero incatenato ai piedi dell'altare. Non potevo correre sotto il portico, mescolarmi alla folla, raccogliere il suo guanto, rubare una foglia di rosa dal suo bouquet. Non potevo offrirle l'acqua del fonte e toccare le sue mani grandi e sottili, così morbide e belle. E così fredde, disse Stenio, attirando l'attenzione. Questo granito, lavato incessantemente dall'acqua che fuoriesce dal ghiacciaio, non è più freddo della mano di Lelia a qualsiasi ora del giorno. L'hai toccata? Disse il sacerdote, abbracciandola con rabbia. Stenio lo dominava con uno di quegli sguardi magnetici in cui la volontà dell'uomo è così concentrata da soggiogare anche quella di animali feroci. Ti ordino di continuare la tua storia o ti farò cadere nell'abisso con i miei occhi. Il pazzo Magno si impallidì e riprese il suo racconto con la sciocca paura di un bambino. Ebbene, disse con voce tremante e sguardo timido, sappi cosa mi stava succedendo allora? Stavo rinnegando Dio, stavo maledicendo il mio destino, stavo strappando con le unghie il pizzo dell'alba immacolata di cui ero vestito. Oh, stavo perdendo la mia anima, eppure stavo lottando. Poi, oh mio Dio, quali prove mi stava facendo passare! Vidi dal fondo della navata oscurata un'ombra che sembrava spaccare la pietra delle bare, e quest'ombra, dapprima sfuggente e fluttuante, è cresciuta con la mia paura ed è arrivata ad afferrarmi tra le sue braccia livide. Era un'apparizione orribile. Ho lottato contro di essa, l'ho implorata invano, mi sono inginocchiato davanti ad essa come davanti a Dio. Le dissi, Lelia, Lelia, cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Non ti ho forse offerto un culto profano nel mio cuore? Il tuo nome non si è forse mescolato sulle mie labbra con i sacri nomi della Vergine e degli angeli? La mia mano non ha forse lanciato verso di te i flussi d'incenso? Non ti ho forse collocato in cielo, accanto a Dio stesso, insaziabile, supplicante? Cosa non ho fatto per te? A quali terribili ed empi pensieri non ho aperto il mio petto? Oh, lasciami, lasciami pregare Dio affinché questa notte mi perdoni e io possa andare a dormire senza che la dannazione mi pesi addosso come un incubo. Ma lei non mi ascoltò. Mi abbracciò con i suoi capelli neri, i suoi occhi neri, il suo strano sorriso, e io lottai con quell'ombra spietata finché non caddi esausto, morente, sui gradini del santuario. Ebbene. A volte, a forza di umiliarmi davanti a Dio, a forza di innaffiare il marmo con le mie lacrime, trovavo un po' di calma. Tornavo a casa confortato, tornavo nella mia cella silenziosa, sopraffatto dalla fatica e dal sonno, ma sai cosa stava facendo Lelia, che cosa ha immaginato l'empio schermitore per farmi disperare e perdermi? Entrava nella mia cella prima di me, si accucciava astutamente e flessuosamente nel tappeto del mio prie-dieu, o nella sabbia del mio orologio, o nei gessomini della mia finestra, e non appena iniziavo la mia ultima preghiera, lei appariva improvvisamente davanti a me e mi posava la sua mano fredda sulla spalla, dicendo: Eccomi. Poi dovetti sollevare le palpebre stanche e lottare di nuovo con il mio cuore turbato e ripetere l'esorcismo finché il fantasma non fu scacciato. A volte si sdraiava perfino sul mio letto, sul mio povero, freddo e solitario letto, si sdraiava su quel divano, l'orribile spettro, con grazie da cortigiana e fremiti voluttuosi che mi facevano rabbrividire di orrore e di paura, e quando aprivo le tende di serge per avvicinarmi al mio letto, la trovavo lì che allungava le sue braccia lussuriose e rideva del mio orrore. Oh mio Dio, quanto ho sofferto! Oh donna! O sogno, o desiderio, come mi hai ferito! Quante forme hai assunto per entrare nella mia casa, quante bugie mi hai detto, quante trappole mi hai teso! Magnus, disse Stenio con amarezza, stai zitto. Le tue parole mi fanno gelare il sangue. Solo l'immaginazione di un prete è così assurda da calunniare Lelia in questo modo. No. Disse il sacerdote. Non l'ho profanata nemmeno in sogno. Dio mi vede e mi ascolta, che mi getti in questo abisso sedimento. Ho resistito con coraggio, ho consumato la mia anima, ho esaurito la mia vita in questa lotta e non ho mai ceduto. E l'ombra di Lelia è sempre uscita intatta dalle mie notti terribili e brucianti. È colpa mia se la tentazione era orribile, perché lo spirito di questa donna seguiva ogni mio passo, perché è venuto a cercarmi ovunque. A volte, seduto nel sacro tribunale della confessione, ho ascoltato con raccoglimento le tristi confessioni di una donna orrenda per le rughe e gli stracci, e se mi capitava di gettare lo sguardo su di lei mentre rispondeva, sai quale figura mi appariva alle sbarre del confessionale, al posto del volto giallo e avvizzito della vecchia? Furono il volto pallido e lo sguardo freddo e malvagio di Lelia a pietrificarmi. Poi la mia parola rimase paralizzata sulle labbra. Un sudore doloroso mi inondò la fronte. Una nube passò sui miei occhi. Mi sembrò di dover morire. La mia lingua cercò invano una formula di esorcismo. Dimenticai persino il nome dell'Altissimo. Non riuscii a invocare alcuna potenza celeste. E questa allucinazione cessò solo con la voce roca e rotta della vecchia che mi chiedeva l'assoluzione. Io assolverei, io libererei le anime, io la cui anima è stata incatenata da un potere infernale, ma per fortuna Lelia non c'è più. Lei si è dannata e io vivo, mi salverò perché lo confesso, finché vissuta ero in preda a tentazioni orribili, pensieri molto più distruttivi di quelli che ti ho raccontato fermentavano nel mio cervello e vi rimanevano per giorni e giorni. Questi pensieri erano il dubbio, l'ateismo che mi penetravano come un veleno. Ci sono stati giorni in cui ero così stanco di lottare, in cui la speranza di salvezza brillava così debolmente e così lontana che mi sono buttato con tutte le mie forze nella vita presente. Bene, mi sono detto, siamo felici almeno per un giorno, siamo uomini visto che non possiamo essere angeli. Perché una legge di morte dovrebbe pesare su di me? Perché dovrei accettare di essere tagliato fuori dalla vita degli uomini in cambio di una chimera del futuro? Sono felici, sono liberi gli altri, loro respirano a loro agio, camminano, comandano, amano, vivono. Ma io sono un cadavere disteso su una bara, i resti di un uomo attaccato a un pezzo di religione. Se ripongono la loro speranza in questa vita, possono realizzarla perché possono agire. Inoltre le cose che vediamo esistono. La donna che possiamo abbracciare non è un'ombra. Ho solo la speranza di un'altra vita. E chi ne risponderà? Mio Dio, tu non esisti, visto che mi lasci in preda a queste terribili incertezze. C'è stato un tempo, si dice, in cui hai compiuto miracoli per sostenere la fede vacillante degli uomini. Hai mandato un angelo a toccare il labbro muto di Isaia con un carbone ardente. Sei apparso nel roveto ardente, nella nube d'oro, nella brezza notturna, e ora sei sordo. Resti indifferente ai nostri errori e alle nostre colpe. Hai abbandonato il tuo popolo, non tendi più la mano a chi si smarrisce, non dici più una parola di incoraggiamento e di forza a chi soffre e lotta per te. O sei una menzogna e un vano orgoglio dell'uomo, non sei niente, non sei. Così bestemmiai. E mi lasciai trasportare dall'ardore del desiderio. Oh, se avessi osato rinunciare completamente a me stesso, se avessi osato reclamare la mia parte di vita e possedere l'Elia solo per volontà. Ma anche questo non ho osato. Nel mio cuore c'era sempre una paura sorda e stupida che mi gelava il sangue al culmine della febbre. Satana non mi prendeva né mi lasciava andare. Dio non si è degnato di chiamarmi o di respingermi. Ma tutti i miei mali sono finiti perché Lelia è morta e io sto tornando alla fede. È morta, vero? Il sacerdote chinò la testa sul petto e cadde in una profonda fantasticheria. Stenio lo lasciò, senza che se ne accorgesse.